AVS Media Demo. AVS Media Demo. Nella mia classe c'è una ragazza bella, viso carino e corpo da modella. AVS Media Demo.